pochi che escono fuori, ma sembra che siano in due. Io anche tutti con la leva piccola sono. Infatti, se tu vai a rifare i tuoi suoi, tu ti chiudi al muro. E vabbè, la gente non vuole capire, bisogna andare piano, ma andare piano. Io quando sono andato in ferie, sono rientrato, adesso capì, perché mio collega proprio in quei giorni di tempo voluto eccetera, si è uscito fra Carecci, proprio con la macchina che usavo sempre io, adesso non ho piedi, infatti sto usando la smart, la sta usando mia figlia, tutta la sua è la Mercedes, stanno cambiando un pezzo. Io sto usando quella mia moglie per spostarmi a lavoro. È un casino, bisogna andare piano. Ma a volte neanche per te, anche per gli altri. E lui ha detto, ci ha tagliato la strada alla macchina e per non prendere la macchina in pieno ci è salito su marciapiede, ha rotto semiasse e gantuvia. Capito? Siccome noi non le facciamo portare le macchine così in qualsiasi officina, andiamo a portarle, mandarle a Cagliari, adesso capivi, non è niente da fare, sto usando la macchina mia, un minimo di rimborso chilometrico e sempre andando e tornando. Sei brutto. Aspetta un attimo, prego subito un pace, qualcuno che vuole entrare, chi è avanti? No, sono ancora la mera, se non lo ricordo. Faccio un attimo, se con il bianco, gli avvento subito, va, guarda, a bermi un bicchiere di acqua. Lui chiama acqua. Cos'è lui? Che lui chiama acqua. Lui la chiama acqua, sì. È acqua della billetta, la gialla, non fisce, no, vino. Che mare è? Tu mari di là, allora tu mari. Ma ci va con i sarraddu, io non entra va. Un bel freddo c'è. Un bel freddo c'è. Ma io non andare. Ma c'è una furia la sera, cazzo, proprio facile non viene di là. C'è un freddo, cazzo, sta così bene a casa. Ma sapete che ti intendi male, non fa, dice non hai gara. Io non li voglio, ma per uscire, capito? Già tre sabati siamo a casa. Il problema è lavoro, la parte io niente al campo sono andato. Ho fatto il telefonato. Arriva le garoe. Io dico mica io non ci vengo al campo, andate, vincete per me. Ehi, cazzo, aiuto, ti metti giù il bottone, no, vai, non gli fai panchina, chi cazzo, vediamo lì dal vento, niente da fare, non ci sono andato, abbiamo giocato alle 3:30, 5:15, penso che le fame se abbiamo vinto o perso. È stato freddo oggi, già da sono una vita in campo, no? Vabbè, poi se uno... Diciamo, c'è gente non deve fare un cazzo, ma se vuole la neve andiamo a testa per essere abbassita. Non fa, io non ci sarei andato. Troppo freddo, troppo, no. Poi lui è allucinante, è morto stamattina, mi sono congelato. Sono passato lì, non sei passato qua da ma non si chiama, non barri via Pasqua. Sto più andando, non sto più scendo, non sto più andando al bar io, non ci sto più andando. Vado a piazzare Segni la mattina, prendermi un caffè e basta. Non sto più ciucciando. Fresca! Vabbè, sto ciucciando, mi dica di imbriagare ogni anno, avanti vecchio. Papa, buonasera Luca, buonasera Claudio, buonasera Antonello. Ciao Benito, buonasera, ben sentito. No, lui, ma per... lo sai, sono propri amici, troppa gente che mi conosce e quindi evito di andarci. No, sono già 3 o 4 sabati che non ci vado, ma lo sanno loro, qui non è che si offendono. Non ci sto più andando. Vado lì. A volte mi chiama Ivan, che magari c'è posta Benitos. Benitos quando è puffo. Quanto pesi che ho fatta? 86 euro, quando ero giù, adesso peso 80, 30 qualcosa. Sembra che sei stata in cuoio. Beh, io sono di fattura un po' grossa, ma pancia non ce n'è più, scesa, scesa. Faccio sempre flammi, se mi molli guai, però anche nel mangiare sono un po' a regime. Non mi ha dato luce, non mi ha dato tutto. Però il vino fuori impatto e mi stava facendo ingrassare troppo. E allora abbiamo dato un taglio. Va tu, va. Avanti, benito. Fate bene, non bene, fate bene. Dimmi, sono in compagnia di Abele, ma stasera sono a cena full. Mi sa che c'è carne, pesce, non lo so. Siamo a casa di amici. Non ti credere che non ho bevuto un bicchiere di vino. Lo bevo lo stesso, ma come bere mangiando, come bere fuori dal pasto. Capito? Quindi va bene così. Se non riesci a bere di più. Ehi, già lo so. Uno bere bevendo, già ho capito. Ma quando stai mangiando già un bicchiere di vino dicono che fa bene. Allora io a casa non bevo. No, da solo, devo solo acqua a casa. Se poi c'è gente che abbiamo il vino, lo beviamo, no, senza approfittarne direttamente. Ma quando ero giù era tutti i giorni, capito? Perché rientrano al lavoro, parcheggiavo, mi trattenevo 10 minuti, 15 minuti, quei 2-3 bicchieri di vino te li fai sempre, e sai, 3-4 al giorno. Thank you. sempre lì. Mi sa che domani decide pure la neve, altro che balle. Vediamo, sarebbe male, dai. Faccio un freddo qua su, minchia. Sono uscito un po' di oro qua, cazzo. Fredda le due, mamma le dolci. Ti mandano solo in chivino. Sì, cazzo, ma qua siamo in alto, mi dico. E tu sei un po' più giù, coperto. Ma in alto, cazzo, con una bella montagna allucinante. Sono uscito un po' di oro a prendere roba, che mi sono bucancalato. Ti preoccupavi, siamo pure in basso, tranquillo, i buoniamo via i scudi. Sta picchiando, io ho aperto la finestra adesso, c'ha la persiana chiusa, l'ho aperta, tutta per la finestra, no? Di fuori. Che cazzo, mi devo congelando, mia madre che divenga, no, è troppo freddo. Adesso esco, ho fatto il mortolino, se non devo uscire a comprare qualcosa per mangiare, no. Certo, la volta non si fa bussino, e si la migliore in come te bossava. Non mi fa. Oh mio. Sì, benito. Male mi sento. Male. 17 sono raffreddato, beh. Il patrizio va con uno giù. Sì, non è quello, no, entra, esci e ti viene. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, purtroppo, io due volte già quest'anno. Non è la prima volta, quest'anno è la prima volta, c'è anche mal di testa, mal di schiena, di tutto. Quando stai, no? Guarda, una ogni tanto, non molto. Sono lì come è meglio. Già lo so, se smetto anche, è ancora meglio. Prenditi sigaretti come ho fatto io. No, guarda, sono un ubriaco, non ho altro meglio di niente. Sì, sì, sei ubriaco. Ci sono quelli aromatizzati che sono a fine del mondo, aromatizzati, addio. Non si sente niente, neanche quando ce l'hai acceso. Non fumo pulito, pulito, non lo aspiri. Questo così per il sapore del tabacco. Io ho quelli al caffè, ma sono di un aroma allucinante. Non fanno neanche loro, io mi ho fatto una notte nella finestra, facendo qua dove c'è la radio, non ce l'ho sicuramente a mia moglie, guarda, vuol dire che è tutto a posto, perché la metto la mattina, apri tutto per la dieci, però non è che fiaggo già la sigaretta. Non mi piaceva proprio di sé, capito? Io fumassi solo il periodo della mente che non usavo le sigarette, allora era meno fumati. Poi devo sigarro qua. E io? Mamma mia, che fiaggoso. Non è fiaggoso, lo accendo io. Non c'è, non è fiaggoso. Sono qui i toscanelli in mezzo a taglia, aromatizzati. Io li ho comprati al caffè, sono buoni, non lo aspiri, ma ti dura, figurati uno, da stamattina, adesso non l'ho ancora finito, poi si asciuga, ne abbiamo tanto, capito, si spegne, te lo tiri in bocca, sempre che stai sempre fumando, durano un bel, durano parecchio, addirittura mi vedi a fumare dove ho battuto i sigaretti. Uia, uia, e comunque, se non se ne fuma è meglio, però una situazione non mi importa, non manco un mutigaro. Fumavo quelli a Lanice. Sono a Lanice, sì, bravo. No, ma Lanice l'ho assaggiato, non mi piace. Questo è proprio il gusto normale del tabacco, solo che il fumo proprio ha questa aroma di caffè, non è fiaggoso, non è puzzinuccio, è più fiaggoso la sigaretta, che è comunque la c'è la sigaretta spenta nella porta cenere, mamma mia, vi aggredito quasi. Vabbè, la sigaretta è più puzzolente, sì, più puzzolente la sigaretta. Uno è andato bene, sta bene, ha detto, sto andando a bere, a bermi un bicchiere d'acqua, ha detto, proprio gridi. Bicchiere d'acqua, e la chiama Eva. Eva, là, da fa, un fiacco di vino. E sono pure due. Che vino per tanto questo? Non lo so. Ma sto volendo il computer, con l'ugarie. Sto tranquillo di svegliare le mani. Quanto di chi? Con quella Lazio, la Lazio è prima, questo Inter è quarta, quel cane prenderà i vini della Juventus l'anno passato, messa male veramente, roba di critiche ci sono, ma dice l'allenatore ma non fa squadra, c'è il fratello Mourinho con lui stanno con lo squadrone che ha l'Inter. Che ha fatto la Juve. La Juve già potrebbe fare di più. Comunque, meglio l'anno scorso. ciambelle escono col buco qua. E che te devo dire? Io non ti posso dire altro perché non me ne intendo. Già vedi? Io non ti posso dire altro perché non me ne intendo, che a me è un cazzo. No, ma neanche io sono così, mi piace, lo pratico anche adesso, ma non stiamo facendo questo torneo Enders con il 45, per cui ce n'è un bel fuori quota, però è per divertimento, chiaro, se c'è un ruolo segui quel ruolo e basta, non è che buona fatta, mi fa con i contenuti, ma dico lì che c'è uno squadrone, non è che è perché ho perso la Lazio debba essere una squadra da sottovalutare, in modo più assoluto. Ha una grande squadra, però secondo me questo allenatore ha qualcosa da recriminare, non ha le cose giuste al suo posto, così stanno dicendo. Ma vediamo domani. La domenica sprint, cosa dico? Se è così. Qua, secondo me è tutta questione di, come si dice, simpatia all'allenatore, cosa, ci sappia parlare, perché la gente la deve anche infogare, no, diciamo. Bene. Spogliatoio ci comandami. Spogliatoio, caro mio, l'allenatore è quello lì. Perciò io mi ricordo quando c'era Mourinho, si diceva che il tizio non aveva giocato, non giocava. Ma mi sa che c'è un po' di spogliatoio a vita maniera e quindi sta un po' soffrendo la squadra. Andiamo a vedere. Bisogna essere all'interno per poter giudicare. Io giudico da fuori per quello che dicono i giornali, anche sul computer ci sono un sacco di critiche sull'Inter. Però, ripeto, bisogna esserci dentro per le cose, per sapere le cose. Ehi, cazzo, dai, non lo so, su questo non lo so. Io ti volevo fare un paragone su quello che facevo io prima, ma non lo so. Infatti, non bisogna mai esprimersi se uno non è sicuro di quello che dice, altrimenti è un casino. Scappa, oh, Bianco, un attimo che ci porto questo e ne porto l'altro a giustare. Via, va bene. Pacca. Aggiornamento, via il tuo aggiornamento, vediamo un po'. Facciamo l'aggiornamento dell'antivirus su qua. Sì, l'ho fatto oggi, mi ha detto apposta. Erano tutte e quattro verdi. Poi gliel'ho fatto fare lo stesso. No, se sono verdi tutte e quattro non c'è bisogno, ma se non sono verdi devi far fare. Erano tutte e quattro verdi. Hai detto no, lo facevamo a testa. Infatti mi scrive ultimo aggiornamento 4/12/2010. No, va bene, molto più veloce adesso. Vedo che quando lo accendi lo vai subito su internet 2 minuti e appare subito la pagina prima che sia 10 minuti. Ma non vado a entrare un blocker, non so perché mi esce la pagina dove spedire i chips, però non mi fa entrare, ma che cazzo ne so. E mi sarà la neve. Ci sarà la neve per quello che non ti fa entrare. Ma vuoi entrare? Non è vero, con il computer non ti vado a entrare. Vabbè, a che la vuoi fare la allora, lei è vicino. Tu se vedo delle misure, vedeva sia la neve. Ma vi più compreso, la RAI sul 5. Se c'era la neve sull'antenna o c'era la neve al televisore. Per carità, babbo, va, mi assento un po', dai, ci sentiamo dopo, classe, mi siedi, facciamo nessuno, spengo tutto, per cosa ho stato anche le antenne, roba la nota secca, ci sentiamo più tardi, adesso vediamo un po' se deve comprare qualcosa, sta qua. carbonari. Direi ero uno, io sono qua, sino a certa ora poi non ci sono. Comunque già ci sentiamo con al limite, sta bene. Ciao, già sono qua in ascolto. Poi se fa gente poi ci sentiamo dopo, là. Se fa gente poi sono dopo. Ciao ciao. Sì, no, io sono qua, sto a mezz'ora. Ciao a voi. Sì, ora faccio in tempo. Là. Ciao. Sentiamo dopo, bene, dai, vediamo un po' se deve comprare qualcosa, ma sta qua. Se posso vai a sciare, da, capito. Va bene, va bene. Ehi, Alu, guai, cazzo, come fate, non ricordo più a freddo. La rubi giù, o no? Sì, va bene, va, Lu. Capito che siete in cicciato. Roberto, se non me lo bisogno io, cioè, tanto non sono obbligato, ma me lo bisogno io, non freddo. Capito mia, è lampo. Ehi, però tu sei più giovane, lei più anziana, capito hai? Sì, che se vogliate tenere in diritto ora in burguio, va bene. Già lo so già, le tasse vanno avanti con tutti quanti. Ma lo sai giallo, no? Cappa già. Va bene, a dopo, qui, sono ritornati, va. Sono del Marina, mi ascolto. Sono tornati, alla base. Oh, auguri, auguri. Io vi hanno voluto speciali. Oh, link nazionale. Ah, link nazionale. E allora era attaccato. O forse c'era stavano facendo qualche manutenzione, perché il segnale del ponte lo va, però non sentivo nessuno. Quello grosso, quello grosso. E così lo attacchiamo a un baracchino, lo proviamo a vedere. se, se cammella. Scappa. Oh, va. 1, 2, 3, 4, 5 poelli. Sì, sì, cos'è? Che marca è? Sempre quello della ZG. 2001 però. Sì, 2001 MK3. Sì, sì, l'MK3 della ZG, sì, sì. Eccolo, c'è bene. Se c'è una nuova, nuova, quello 600 in M, si riciulla forte. Sì, positivo. Io l'ho avuto un altro, tipo questo, e dava anche più di 600. Cosa c'ha di ingresso? 5-10 watt? Mi sembra di sì. Non ho guardato dietro se c'è scritto, lo sai. Mi sembra c'è scritto dietro, ci sono due attacchi, 5-10 watt. 5-10 watt. E guarda. Solo uno ne attacco. Uno ne attacco, 5 watt. Eia, io voglio dire te lo dico, diciamo io. Utilizza comunque input, comunque 5 watt li puoi agganciare, 5-6 watt va benissimo, dopo che superi 6 watt si brucia in ingresso. C'è una cosa stretta, l'avevo regolato a lui che non mi facevo niente a delineare, quando ti ho toccato di casa ho detto una cosa voleva, ho detto ho toccato via, non la faccio niente, e c'è la l'avevo regolato a lui il BV2001 e MK3 tutto. Ci sono, c'è la guagua, ecco, nuovo, quello che c'è Stefano. Lo usavo a casa io. Comunque vuol dire, non c'è niente dietro, già solo una cosa di regolazione basta. La cosa di regolazione cosa vuol dire? Non lo so, c'ha un buchettino e si vede la vittina, una vittina. Ma quello 2010, non dura mai, dice. No, non c'è quel pericolo, non è che se posso partire niente, perché guarda, il barattino che ho io, quello che dà più watt ne dà 5, gli altri ne hanno tutti 4, tutti 4 watt, perciò non c'è quel problema, non mi è piaciuto. Salilo domani, Merì, e lo proviamo. Ma, lo dica se va a fuori, no? Di Viro, però, di Viro. Diglielo, se lo puoi salire qua che non me lo posso io. E poi tu me lo pigliavo, se me ne posso io. Ma per provarlo qua, sotto antenna e col bracchino, capito? Anche sotto strumento, che è molto importante, con la collatore. Così vediamo effettivamente se funziona bene, se c'è qualche problema. Eia, scappa. A me tu dici che funzionava, tu, ma solo l'unica cosa c'era questa valvola, così se la scoppicchi, cioè che si era rotta, ma infatti allora non c'era neanche dentro. E un coso, due cose da saldare. Poi ce l'ho guardato bene, ce n'erano di cose da fare, da risaldare bene. Ci sono due pezzi di cose saldati qua, se li vedi, fa carità, però io tu voluti toccare. Ma dove ci sono i piedini della nodica, li saldati sono saldati male. No, dove ci sono delle resistenze, dove ci sono delle molle lunghe di accordatura, quelle cose lì, ci sono dei punti lì, a caridai. Vabbè, però se sono saldati, non bisogna toccare. Se la saldatura è sufficiente per farlo funzionare, da Sarusi si mette la valvola e si prova. Se funziona, si lascia stare così, non si tocca niente. Poi magari si fa un po' di pulizia, qualcosa. Se c'è da rifare qualche, rinforzare qualche saldatura, si può rinforzare, ma non è che devi mettere a disaldare, è meglio lasciarlo stare così. Ma se tu vuoi ribari uno stagno bigliato con una valetta americana e cucinato, non ho capito. Vuol dire che stava saldando, c'è cioè la tremarella, e ricolava lo stagno, ehi, tu gli sei giudice, per carità. Se ne vedi i lavori fatti alla Catricana, uia uia. Bene mio, tu vedi quella radio di Sano, 757, all'interno com'era? Se c'era un fusibile all'interno con la carta stagnola, con la carta stagnola, la carta stagnola era già tutta nera, quindi come riscaldava il fusibile? Vado a messo il fusibile nuovo, la 25 ampere, con tutta la sua custodia, tutto il cavetto dietro. Era una cosa allucinante. E più tutti i componenti, tutti saldatura, se quando la vedo lucida non la mollo, o se no mi va un pudore, lo cagna e la torna a fa. Però io a me non mi ha insegnato nessuno, ho imparato da solo. È quello che so fare, se lo so fare bene, perché mi sono insegnato, e vedendo anche altri. È normale che sia così, non dico che la saldatura di un PL debba essere fatta chissà come, però deve fare bene, no? C'è quella sua canalatura e lì dentro deve mettere la saldatura, non ti dico vieni tutto, ne rubai tutto passà, basta appena appena una punticina per tenere il puntale fermo e del positivo e basta. Io di solito le do anche una limattina, una pulitina, capito? Lo faccio proprio giusto giusto per essere perfetto. Ma quella è una cazzata per i PL, ma saldare sulle piastre portadio di Benì o saldare i componenti all'interno non ti credo che sia facile. Prima devi avere il saldatore adatto, perché se non c'è il saldatore a punta fine o ad aria sei fregato. Vero Antonio? Signori, buonasera. Buonasera Sandro, ben ascoltato. Ok. Ciao Sandro. Buonasera Circolari. Buonasera Circolari a tutta la ruota. Ok. E allora, cosa mi dite? Ciao Claudio. Ciao Sandro. E cosa dobbiamo dire? Che abbiamo freddo a grani e buco. Per il resto tutto procede bene. E vabbè, riferimento al freddo è tempo suo. Certo, qua c'ho la stufa che da stamattina alle 5 che sta andando, cazzo è, sembra che non voglia riscaldare. Ehi, freddo c'è, freddo. Speriamo che non butti neve stanotte, perché domani non abbiamo sorprese. Avanti Antonello, senti a Sandra. Prima voi, no, non posso più butti neve. Se non la metto ci fa una bella giornata domani. Perlomeno, però sono intanto con qualcuno che dice una cosa strana. Nel TG uno diceva che piove, l'altro dice che neve, tra l'altro dice che fa bella giornata, quindi non sa più chi dà retta. Allora guarda sotto a Sandro. Sandro. Oh Sandro. Scusate perché ero qua che mi stavo posizionando. Allora, io nella macchina sono circa un quarto d'ora, 20 minuti fa, c'avevo 6 gradi qui a Porto Torres. E me lo dici? Mamma mia, che... E me lo dici così? Sono a cena io stanotte. Mamma mia, che... Ah, raga, della coperta elettrica. Insomma, speriamo che non ci sia il regalino di Natale che, cosa si dice, che ci alziamo e abbi fatto qualche sfruttatina, ma non sarebbe. Non tanto a Porto Torres, ma sa se ricordo dove sono io. Siamo a 320 metri, quindi dal livello del mare, perciò può essere che il cuglio ha che cosa, speriamo di no, va bene. Se vuoi salire domani mattina, sali Sandro, che stavo pensando una cosa su quella radio. Ci ho pensato, non l'ho mai detto, non abbiamo provato il 508 senza equalizzazione lì, quello che c'ho io, può darsi che vada bene il 508, può darsi. Dunque domani mattina devo salire. Perché è aperto dove tu sei, quindi devo salire, ma tutti altrettanti. Cosa sta? Sono le 7 in piedi, Sandro. Sono le 7 in piedi. Scusate, affettati. Non ci riesco più a dormire, ma il tenore è quello. Magari trovi il telefono spento, capito? Ma io sono in piedi, no? Il telefono accende magari verso le 8 e mezza, alle 9, io sto per non rompermi le palle con qualche collega, qualcuno. Ma io sono alzato, no? Non ti preoccupare. Io a quell'ora sono alzato. Comunque lo tengo acceso il telefono, non c'è problema. Quando si alza, se ne mi fai uno squillo e mi dici che sei arrivato. Così voglio, no, voglio togliere una curiosità, non si sa mai che va bene il 508, siccome c'è la connessione IAISO con l'altro carretto, non si sa mai che va bene, e allora è risolto il problema, capite? Perché se va bene, 2908, tutto è bene con lì. Vediamo di fare qualche altra prova. Ok, allora, io trago presto. Trago presto tra fare tutto quanto, liberarmi di tutto, ci darà intorno alle 8:30, per quell'ora lì. Ehi, vieni direttamente, sto dicendo, le 8:30, vieni con 8:30, almeno un quarto, due quarti. Dimmi, allora che vieni, porta sulla radio col carretto. Hai il microfono? No, vale, ti ha portato via la tua volta a porta e proviamo il 900, il 508. Se va bene il 508, il problema è risolto, capito? Lo provi qua tu, dai, vediamo un po' com'è, non so, e se no fermo come ti hai detto, voi sapete di che, ma non lo mettere, non lasciarmi fermo. Va bene, va. Ok, allora me lo preparo, me lo metto dentro il coscio. Lasciarlo arronzato, non usarlo e a fargli danno, capito? Quindi, insomma, prima di fare danno a qui andare a spendere soldi per cosa, non ne vale la pena. Va bene, ok, riprendi, bene. Eia, che sta aggiustando. Comunque sta andando bene, non ha toccato la radio. Qui c'è poco da toccare, qui si è già toccato, rimane così, capito, qui è come, cosa ti posso dire? Come avere le ciabatte bucate e metterti le scarpe di cuoio e così via, capito? Quasi ho capito. Cosa ti volevo dire qua? Hai presente il software, come lo chiamano? Software, diciamo così, di programmazione, dove ci sono tutti i programmi? Su quale? Su quello grande? Positivo, penso che si possa anche fare su quello che c'hai tu. Sì, io all'inizio a me ne manca uno. A me ne manca uno, il 440 l'ho mandato proprio a aggiornare il software. Ogni tanto, ogni 2-3 anni vanno aggiornati, vanno fatti gli aggiornamenti, perché il software proprio di quelle radio lì è quello che comanda il PLL. Infatti l'ho mandato a fare l'aggiornamento. Ma il mio è analogico, capito? Quindi gli aggiornamenti da fare sul software non sono a scheda, sono da cambiare i componenti. Quindi alcuni componenti vanno tolti e sostituiti perché sono esauriti. Mentre da te è molto più facile, da te c'è l'aggiornamento elettronico della scheda. Va messa la scheda, va attaccato il carretto a quella radio, visto c'è il carretto DB9 del computer, si attacca al DB9 e si fa l'aggiornamento tramite computer, quindi componenti è molto difficile che li cambi, a meno che la scheda non sia proprio in esaurimento totale, ma il tuo è tutto digitale. Esatto. avete scelto tipo CD di programmazione, quello ce l'ho, me l'hanno portato stamattina. Io oggi pomeriggio ho provato un attimino su quello là, ho collegato, tutto quanto, lo installa, il programma se lo installa, lo riceve tutto quanto, però è arrivato a un certo punto rifiuta, diciamo, dei programmi. Rifiutarlo significa che, diciamo, non riconosce determinati valori, capito? C'è la password d'accesso sul menu principale del software, non è che lo fai così, no? Non sono scemo. Chi lo vende inserisce una password, te la dà, ti dà il dischetto di programmazione e tutto, però se sei sprovvisto devi telefonare a loro dicono no, lo mandi a noi perché sa qui e là, è troppo gomodo così, capito? Anch'io quando avevo 950 che è digitale come quello, dovevo fare gli aggiornamenti, ne avevo parlato con Marco Scorpion, e mi ha detto ti conviene mandarlo su, infatti l'avevo mandato la Guidetti e non aveva fatto più l'aggiornamento. Anche l'850 è la stessa cosa. No, perché devo fare fame, però mi servirebbe la password d'accesso per il software, mi ha detto no. Lo mandi qui, sa perché è molto complicato, ci possono essere dei problemi, il computer ha un aggiornamento particolare per poter inserire quel software qua. Ho capito, gliel'ho mandato. Esatto. Diciamo che è come una licenza che ti danno di permesso e tutto quanto. E va caricato sul computer, c'è un programma, tutto quanto. Io adesso ho il portatile computer che me l'ho scaricato sopra. Io adesso sto operando tramite, io adesso sto parlando con voi, vi sto ricevendo con voi, col computer, non con lui. Sì, lo so, ti appare la tastiera, tutto, lo so, ma anche questi qua lo fanno. Sia il 430, il 440, il 140, tutti gli HF hanno l'attacco DB9 dietro, chi DB9 di ultima generazione, oppure l'attacco a 6 punte di quello sempre da computer tipo tastiera, no? Quello lì. Sì, ottimo, hai fatto bene, grande lavoro, è molto bella quella radio. Prima si incazzano gli anni passati. benito benito, bestemmia non veniva, chiedi del muletto, allora sì. Guarda, mi imbazzinata, io non ricordo Sigia, con i catini e basconi di lì. Se non mi dite nata che ci vuole, ma vedi se vuoi aggiungere tra l'altro giardino un buco. Sigia, qua l'avevamo detto, qua è tuttino, l'avevamo detto. Però giardino, giardino, italo. Antonello lo stesso. E tu, quanto di aver fatto dopo, qua c'era Salvatore e altri che non mi ricordo. Cazzo. Imbazzinata, siamo bruciati un'altra muretta, ma io capito mi pare. Se non guarda tutti e due diventa la muretta, dalla parte del supermercato, piace. E poi è positivo. Poi, come eravamo andati da voi? Mi sembra che eravamo usciti a Bagatella. Sempre Graziella, Torretta scendevamo a Plattamona, quando non andavamo tutti in moto a Trentino pure. Ehi, già è vero, dal nonno di Gavino. Allora, dal nonno di Gavino, vabbè, Piazza le Scegne era la tappa principale, e poi ci guardiamo a Gavremo, ah, io andiamo a Trentino al nonno, ah, io a Trentino al nonno, tutti in moto. Raccontate di Attino quando è andato in moto con Gavino, con le spone hanno buccato, ci manda di Lella recuperati. No, non lo ricordo lui. Ah zitta, forse sì. Forse sì, era Valleva. Se non era Valadino. Santo Antonio mio. E se non con quel cacchio di 127 che c'aveva. S'avventura una riserva con Gavino e si va nella Balai. E a Balai sono rimasti, fermi, senza un goccio di benzina. Io alle 11 e mezza di notte parlando al baracchino, e mi ha chiamato. Oh, a doccia voi, ma non eravate a prendervi fresco? No, vieni col bidone a portarci la benzina, siamo rimasti a secco. Cazzo, se avevo dovuto uscire alle 11 e mezza di notte a portare la benzina a lui. Non te lo dico, le volte l'avevano chiamato a me. È una cosa allucinante, cazzo. No, no, c'era la benzina, ma cosa c'era? Cosa c'era, cazzo? Se tu batti a secco, se già tutta la ghetta vuole più attesa, e più t'avvi in buro. Cesso, cazzo, non so quante volte. È sempre a me che si cava, sempre a me. Non c'era niente da fare. Uia, uia. Ah, Sandro, questa sagrefa nel peggio della nostra era. Tempi da Ruffi, quelle lì, grazie. Vabbè, quanto se n'è fatto, grazie. Quanto se n'è fatto, se n'è fatto e come. E beh, non reagisci. Se n'è fatto e come. Vabbè, altri tempi. E pensare che sono con niente, senza pretese, via. Via, allora, aspetta un attimino qua, aspetta un attimino, che poi ti faccio sentire la tua modulazione. Allora, ok, ci siamo. Mi devi lasciare la portante inserita senza parlare almeno un paio di secondi. Perché l'hanno chiarificato le motori per tutto il rumore che c'è sotto a fondo, se no poi magari li copre. Siamo qua, non c'è problema. Antonello ha caduto la sedia. può più dal sesso. Mi metto il dischetto e scarichi. Puoi scaricare direttamente sul CD, capito? Lui si scarica tutto. Adesso sto registrando sia a me che a te, capito? Tutto lì. Ho capito. No, io registro direttamente le voci, tutto, direttamente sulla radio. Sempre tramite il cavetto DB9 che è collegato al voice. No, perché quella radio c'è anche la registrazione vocale come 920 della Yaesu, come 920, ed esce anche bene, c'è un bel registratore integrato. Quindi se vuoi registrare la modulazione di chi sta parlando, quello che dico lo registri. E poi te lo inserisci in memoria e te lo scarichi sul dischetto computer, tramite il cavetto che c'è in dotazione. Sì, esatto, quello diciamo è il suo in dotazione, il suo incorporato e così via. Però diciamo adesso io sto scaricando tramite il computer il dischetto, potrei farlo anche direttamente in quel modo là, però devi fare un doppio passaggio, devi fare prima da lui, poi da lui scaricartelo tramite il computer e così via, quindi adesso diciamo è diretto, ok, vado. No, vado a becchire un capo. Ciao. Vabbè. E io un sacco di cose possono fare anche la radio. Con questo tipo di radio così. Solo che ci vuole un po' di tempo. Devi stare lì a mattinare del dito, fa. Non vale la pena. Se c'è qualcosa che devi poi registrare, già. C'è il registratore, ecco, non c'è problema. Registri. E poi te l'ascolti. Capito? Tutto qua. Però il sistema che c'ha è micidiale. Anche il 920, quello che avevo io era così. C'ha il sistema voice. Tu inserisci o la tua voce in trasmissione oppure la metti in ricezione. E automaticamente sulla scheda audio e te la puoi scaricare sul dischetto al computer. Sì, è uguale, il sistema è uguale a quella lì con 920. Sì, ok. Sì, no, addirittura per dire c'è la programmazione che in automatico imposti come diciamo come una sveglia, te le imposti alle 4, alle 5, alle 18, alle 22, alle 24, lui parte e si registra tutto quanto, tu vuoi ascoltare per dire in quell'ora, per dire chi c'era, chi non c'era e così via, se lo memorizza poi tu lo vai a cercare e compagnia bella. Io adesso per dire posso memorizzare singole modulazioni, per dire adesso ho registrato la modulazione tua, tra una settimana voglio ascoltare la modulazione di Claudio, magari ti so dire guarda che una settimana fa uscivi così, uscivi con A, eri diverso, cose, capito? Tutto in memoria. Beh certo, c'è sempre un riferimento, è buono. Ma anche io faccio così, guarda, se devo fare delle comparazioni, delle prove con il corpo, faccio prima la prova con voi, se poi l'ascolto, magari uso l'altra, è vero, se è compatibile con quella lì, se è più alta, se è più bassa, allora da lì mi faccio le regolazioni, senza stare a chiedere controlli, capito? Perché fai tua Sandra, a te Claudio. Ciao, Pinangelo, in Alghero Street, come va? Allora, grazie, tu, mi ha dato, mi ha messo, ho fatto un baracchino, lo raccendo. Ecco Claudio, vedi un po' come sta andando questa casa? È un po' nasino, sì. Sì, tutto nasino. Ma dove stai trasmettendo? 27075 00. No, no, ti aspetta un attimo. Tu guardo, Camilla. Claudio, non era per il ricorso. Forse volevo fare i maschi. Come sta adesso? No, no, mai che va bene, mai che va bene. Appena appena più di potenza, vale, leggermente. Oh, io lo sento, ecco. Allora, ma uno te lo sento una cosa. Qua stavo dicendo, è un pochino alzato, mi guarda un po'. Ascolta, per la frequenza, qualora, Claudio. Le frequenze, quale, Pina? Che frequenza vuoi sapere? E qua siamo 27075 00, per poter avere il terreno alzato, per vedere se sono fuori. E qua c'è ABL scritto avranno un aumento. RIT, RIT, dove c'è scritto RIT, Pina? Ma sei incentrato, sì, a 27075. Vai bene, segnale 9. La radio 5, ti ascolto anche Benito, Benito senti al Pinaccio. Ehi, hey, che l'ascolto, l'ascolto leggermente, sembra leggermente fuori frequenza, però oggi lo sento. Già Benito, io ti ascolto bene, guarda. Qua, perlomeno, la radio ti ascolto, in quanto qua non ho proprio niente. Santiago sei basso, comunque ti ascolto. Ah, papiera, ti ascolto anche io. Allora, Santiago sei una radio di tre, logicamente, non più di tanto, ok? Ok, Sandro, per te. Scappa. Ok. Ok, ciao Pierangelo, ben ascoltato. Ben ascoltato, ti ascolto benino, diciamo, Santiago di 7, quasi a radio 5, quasi, però un po' leggermente nasina, ok, vediamo un attimino, scusami che io sto mettendo qualche pillolina sotto, che... perché Alghero, il parlatore per Alghero è un po' negativa, riprendi Piera. Ci sento, però un po' con qualche battito sonno, e qua mi è stato un centinaio di battiti. Adesso il metti mi ha detto, l'ente, eccolo qua, ecco, ecco, guarda un po', e poi, questo, questo è, no, quell'altro, no? Questo è là, ecco qua. Forse adesso sono centrato. Ecco, perfettamente centrato. Lui va, Claudio. Sì, va bene, c'è picchi positivi da 995, va bene. Non c'è problema per me. Poi ti ascolta Benito, ti ascolta anche Sandro, a Porto Torres. C'era Antonello, dunque, è sparito. Ma sto andando bene, non so ti dice. Comunque arrivi benissimo, Pina, non c'è problema, avanti Benino. Ehi, Appierà, non so come mi ascolti tu, ma qua stai arrivando bene oggi, molto ma molto bene. Allora, Benino, qua adesso sto uscendo col K, col 440, quindi qualcosa in più è, logicamente, prima uscivo con 4 vate, adesso mi pare che non mi sto dando un centinaio. Ho guardato un po', logicamente, mi ascolti meglio. A parte, ascolto, forte e chiaro. Sì, Santiago 3, radio 5 adesso. Allora, qua sì, Santiago sì, però in questo baracchino qua è molto generoso. La radio di 3, però è buono, va su. A te, Carlo, caso. Ok. Ok, anche da parte mia ti ascolto benino, benissimo, dai. Come ti ho detto, Santiago 7, con picchi positivi, si sentono proprio che ci sono dei bei picchi arroganti sotto. Va benissimo, Pierà, dai, va più che bene. Ok, come mi ascolti lì, Pierà? Segnava 6 gradi, quindi qui a Porto Torres abbiamo 6 gradi, qui ad Alghero magari è diverso perché ad Alghero, insomma, vabbè che siamo vicini sul mare come siamo noi, siete voi qui ad Alghero, e quindi niente, infatti Claudio si temeva che stanotte non faccia qualche bruttatina, ma non penso, non penso, dai, vabbè, se poi... Se quella fa la fruttatina ce la teniamo, dai, almeno vediamo qualcosa di diverso. Vorrei prendere Pierà. Un attimo, riprendo io. Allora, cosa hai detto Claudio? Oh, vorrei dire a parte mia, dai, che sto uscendo, vado a prendere velocemente delle medicine. Ehi, avvenì, d'accordo, ci sentiamo semmai più tardi. Cosa hai detto, Pinà? Non avevo capito, ciao Benì, qua ci sentiamo le prossime. Qua stavo dicendo, ma anche qua, guarda, stamattina verso le 7 c'erano 4 gradi. Adesso grosso modo dovrebbero essere 6 gradi lì, penso un po' qua al cielo, da lì. Cioè qua si fa sentire il freddo anche qua, Sandro. Ok. Vabbè Pierà, è tempo suo, prima ci abbiamo goduto l'estate, capito? E adesso ci godiamo l'inverno, quindi diciamo che è tempo suo, non siamo abituati alle grosse, alle basse temperature perché non ci siamo abituati, come non siamo abituati se cade la neve usciamo in macchina e non siamo abituati ad andare sulla neve, e tutto lì, dai, comunque. Va bene così, riprendi Cla. No, non è esattamente così, non è vero. Quando fa qua già usare è un casino perché non siamo abituati, non siamo buoni a camminare e diventa un caos totale per tutti, quindi è meglio che non la faccia. Il freddo già si sopporta, basta tapparti e vedi che il freddo non c'è problema, e a casa già si sta bene, basta stare a casa chiusi e ciccia, vero che no? Tu vai a rimanere a chiesa, no? Prova a vedere dove c'hai il coso del mito. sapere, sì, adesso è poco più di uno, poco prima era due era. Penso che vada meglio, posso avere qua il microfono, a Gantelli, a Danilo, questo a Danilo. Un attimo, se la 50 o la 500. E la 50 è... più di questo penso che non posso fare. Infatti, vediamo un po'. Ehi, sono un centinaio sono qua. E più non posso fare, ok? Stazionare, zero, quindi... di più non posso fare, ok? Tu non devi fare più niente perché vai benissimo adesso. Lascialo stare così, ricordati sempre quando lo attacchi quello lì, il K lo metti a sempre poco più di uno, amici Gilbina. Magari quando sei in banda laterale lo puoi sollevare. Però in AM mettilo poco più di uno. Va molto bene così, lascialo così. Sandro, l'hai risolto? K. K, sì, dovrei aver risolto. Stavo entrando dentro la cassa perché gli ho dato l'input di aggiungere qualche pillolina. Ok, sì, perfetto. Angelo, mi dai un controllo? Santiago in radio in quanto passaggio? Pina. Non ho capito che è arrivata mia moglie, puoi ripetere? Ok, Pierangelo, vedi un attimino in questo passaggio. Santiago a radio, come sta arrivandoli? La radio 5 va bene, no? Santiago oltre il 7, oscilla quasi sull'8. Ok, va bene, dai. Va benissimo. Li date grazie per lo stesso. Ok, vedi un po', i picchi sarebbero positivi, tutto lì. Quasi 9, 9, 10 quasi. Ok, va bene, dai che metto normale. Non c'è problema, non sta piovendo o fino lì alla ghiera. Stamane ho vicinato per la prima, ma stamane è presto, stamane è di notte, ma tutto il giorno, e lì, no, ma penso che non abbia piovuto. No, qua è un bel rosso, ce lo sta caricando, c'è un freddo furio allucinante. Manco parecchio per il passo e io vabbè. Va bene, dai. Ok, messo tutto va normale. Va benissimo. Ok. Ehi, tempo suo. Tempo suo e ce lo prendiamo così. D'accordo, dai. Mi assento un attimino che devo fare un colpo di bassa. Un colpo di bassa. Pierangelo, ti saluto se nel caso non ci sei più tardi, che io devo fare un colpo di bassa. E ce la sentiamo tutte alle migliori. Stare bene, ciao Piera. Diversi anni, no? E sono state persone un po' così, ma sono sempre a bordo, esempio, non mi interessa, no. Non mi interessa, non mi riguarda proprio. Non sono mai andato, quando anni fa, capito? Anni fa facevo qualche prova lì di tanto, ma poi no, è successo un mezzo bordello, quindi ho preferito di lasciar perdere, capite? Tutto lì, va bene, venite, è uscito Antonello perché è giunto dalla Gabriele. €250 in capo, quindi basta un po' di antenne anche. su di Santiago, nove, non di più, no. Invece continuare, quello già, già fila veramente, okay. Ma la filare è sempre filare, per qualsiasi cosa, come la piatti, può essere direttiva, e quindi ti dà più guadagno rispetto a una verticale, no? Secondo il lavoro che devi fare, anche la verticale ce l'avrà bene, non c'è un problema, va più che bene, ottimo per la truppa. Dicendo, oh Claudio, ma quanto di discesa di cavo, oh Claudio? Io ho 50 metri di discesa per cavo, ho 4 cavi di discesa, che sono 200 metri di cavo, due matasse da 100 ne ho dovuto comprare. L'antenna è sempre lì, però non è sul lato che ce l'avevo prima, perché mi sono spostato di scala dalla G alla F, quindi sono dovuto venire più avanti con l'antenna, e praticamente è sul lato opposto di dove era prima, però volendo la posso mettere sullo stesso lato, ma non l'ho messa per problemi di cavo, perché se la mettevo sull'altro lato invece di 50 ce ne volevano 70 a calata, perché le ho messe tutte e tre in fila, tutte nello stesso posto, capito? Siccome c'è la parete lunga, 30 metri di parete lunga, perché sopra sono le mansarde, quindi le ho messe tutte e tre in fila, però sono all'altra parte, non è più davanti a te, è al lato opposto, fino a... ecco perché ha calato il segnale. Probabile che sia anche più aperta a lui, però calcola, lui le 10 anche qua, tranquillo, dimmi. Non ti preoccupare, stai andando alla grande. Stai andando alla grande, non c'è nessun problema. Sono molto delicati, devono stare molto attenti. me? Non lo so, di tre giocatori e nulla. E vabbè, non c'è problema, appena si fa quel che si può. Però ti volevo dire un'altra cosa, mi sono dimenticato. Ma lì a Valghero, non ho più sentito a... Vabbè, Sandro ogni tanto già entra qua sul 10. A Cavallino, a Coso, a Carlo, non ho più sentito nessuno, come mai? Sono cose che si devono ricambiare. recente riscaldamento, come ci sia accaduto, la mia moglie mi stava dicendo che l'anno scorso c'era freddo. Magari mi date anche un altro golfino. E vabbè, lui non riusciamo perché se c'è molta roba, ma comunque ma ce vediamo. Il golfino abbiamo lo porto e la freddo la mattessa, così già mai mi tocca andare a casa dell'orso bianco. Allora già pensavo che fosse di quelli a contenitore chiuso, invece c'è l'aspirazione e lo scarico praticamente. È positivo. Un coso è mio, non ti diciamo, un motorino di acqua di macchina. Sì. Uno di quelli, ho capito, ma di quelli piccoli di plastica. Sì, è buttato dentro questa vaschetta, la polpetta della porta su. Infatti mia cognata, quando me lo fai, e quando ti busco un motorino, gli ho detto. C'è una bella cosa, e non ve la fai criminale la cosa, hai fatto un ruscellino, una vaschettina, cosa hai fatto? Non ti ho capito dove l'hai messo però. Ho preso di sughero, una specie di petto di sughero, sai il sughero che usi per mettere il porcetto, non è scavato, cioè, l'ho girato a testa in giù, l'ho girato, l'ho fatto una specie di collinetta. Quasi a metà collinetta gli ho fatto il buco e gli ho messo la pompetta, gli ho messo da lì, gli ho fatto lo scavato un pochettino, gli ho fatto il corso d'acqua e gli ho messo, non era il nome di quella carta, la carta stagnola, un pezzettino, perché sai il sughero se la aspira, no? Ma cadere di lì fino alla fine, sotto alla fine gli ho messo una vaschetta di raccolta, capito? Una cascatina là, una cosettina, capito? Due tavoli, due salotti, due cosa è morto? Un goduto per fare l'altro e metterlo in mezzo alle balle, no? Faccio un piccolino a qualche parte lo metteremo. Lo stesso, non è faccio un rubu, capito? Quindi una cosettina piccola, giusto un presente piccolino, l'albero e basta. Sì, un simbolo, dai, un segno per la festa natalizia, ma niente, niente di più benissimo. Altrimenti diventerebbe una cosa troppo, non so, troppo impegnativa, perlomeno per i miei gusti, poi ognuno a casa sua fa quello che le piace, giustamente, però dico, sarebbe una cosa troppo impegnativa. Appunto, se mi appento a fare questo, già mi piace appentare a fare tante queste cose, però cosa piccola, non manna. Certo che sì. Certo, se mi cugnano due tra sabbia, una piena di sabbia, comunque lui fa tutte le cancellate. E io. Va bene, va bene. Ho avuto l'ora a vedere se è freddo. Freddo c'è bene, tu che sei già fuori. Ce n'è. Sabbia che oggi facevo questo freddo puzzenoso che tanto mi sono salita sono andato veloce in farmacia, se il bambino sta male è freddo. Io sono uscito stamattina ma proprio a fare delle cose che dovevo fare veloci, è stato in ufficio, ho consegnato tutta la documentazione, devo consegnare, poi sono andato in caffè, sono andato a prendere due cosettine per casa al supermercato, a prendere il pesce, te l'ho detto, tutto non taglio e me ne sono rientrato subito a casa, perché avevo appuntamento con Mauro, invece mi ha chiamato, ma ha detto che non ce la faceva, che aveva finito tardi, e poi anche lui era pronto fuori, e quindi erano già le 10:30, ma ecco che non ci so, io sono qui, facciamo tardi, proprio ci incazza, perché era pronto da asciugare. Tanto vabbè, niente, a tutti i bimbi, già ci vediamo domani, tanto me ne sono già rientrato a casa. E niente. Quindi, cioè, domani mattina, sta Alessandro, presto, usciamo a prenderci un caffè, una cosa, passiamo in campagna lì a vedere se tutto a posto e poi lo stesso me rientro a casa, no, se tu voglia stare in giro non vai, a parte che ho fatto una vendetta in alto in via, stai in giro per la sinistra. Infatti, no, ma ogni tanto ha fatto un giro tu lì, va bene, comunque stamattina ho tardato perché non la Salvatore. Cosa veni? Ho detto stamattina ho tardato perché sono passato alla Salvatore. Se lo telefoni da sera domani diglielo, dove vuoi c'è di qua, a me non ce l'ho a fare, però sistemo io, e poi quando è a posto viene te lo prendi, che dobbiamo fare che cosa, dovrei avere comunque qualche valvola di quelle, se no c'ho un amplificatore, io le c'ero lì rotto, e mi pare che monti proprio quelle valvole, bisogna che controlli se è sui mansarda o se è in garage, via Pasqua, mi pare che è via Pasquale comunque, mi pare che è proprio via Pasquale, perché l'altro grande che ho io, quello HF, quello non sono quelli del Vallo, quelle sono più grosse, ma quello della 27 mi pare che sia in garage. È positivo, dai, adesso secondo volte domani mattina se te lo porto già ti chiamo. Domani mattina mi siamo in movimento, ti ripeto, sono ormai dove saliva verso le 8:30, quindi io sono in piedi da presto, perciò se lo vuoi salire mi dai un po' più il citofono, o sono qua o siamo usciti a prendere un caffè, quindi ti dico dove siamo e ci vediamo. E così, tanto lunedì sono a riposo, perciò lunedì mi metto a casa e mi metto a fare qualcosa. Mangio un bravo. non ce n'è problemi. Pazzo, ottimizziamo a Sarecci. Aspetta, che ce l'ha Sandro. Ah, vabbè, là. Già, ne parliamo quando siamo in piccata. Eia, eia. Ce ne ho uno, vabbè, quando ci sentiamo, ci vediamo, te lo faccio vedere, te lo dico. Ma se me l'avessi detto prima, avremmo fatto diversamente. Tu me l'hai detto dopo, se non te l'avrei dato, figurati. Non sono di quelli io. Non ho mai negato niente a nessuno. Quando ce l'ho in più o non mi serve, la roba l'ho sempre data. Comunque già avrei un po' di fare qualcosa, non ti preoccupare, già ne parliamo di persona, beh. Non c'è problema. Guarda, e io domani mattina presto non ci salgo, perché no, devo fare cose qua e poi salgo. Guarda, me lo metto in macchina e poi dove sei te lo passo. E anche domani mattina non ti vedi che, ripeto, non c'è qualcosa da fare. Ma una maniera o nell'altra ce la procuro da fare. Ehi, la Mariana l'ho preso. Ho procurato a cosa, l'avevo procurata due a Mancalino, le servivano. Ce l'ha sempre con le valvole di noi, vecchie radio, vecchi amplificatori, ma le valvole anche io, perché io ho tre pezzi, un amplificatore vecchio che usavo prima 27, ed è o è sui mansardi o è in garage, e monta con le valvole lì sicuramente monta con le valvole lì, capito? Perciò ce lo mettiamo a posto, non c'è problema. Cosa vuole anche per l'iniziato? La mascherina no, però intorno sì, c'è un po' di lenta saltando la vernice. Un borso metto per coppè che ce l'ho portato in officina, mi faccio sabbiare verniciare, cos'è, nero o grigio? Verde militare, le mascherine sono nere. E dietro sono nere, quelle che c'ha attorno ai coupé, chi sono verde militare. Non è per ferro. Facciamo grigio, che vuol dire? Bello quel grigio, come quello che faccio io. No, quell'altro grande, quello là di Aesio, quello lì, quello a Crete, quello è nero, perché c'è il frontale tutto cromato in grigio, cromato proprio non grigio, cromato cromato, quindi il nero va benissimo. Quello lì se c'è il frontale nero si può fare un bel grigio perché farlo tutto nero non sta, un bel grigio di quello tipo che potrà, noi usiamo molto quei grigi lì, e sono grigi particolari, si fa sabbiare bene, proprio in officina, e hanno del logo di cappuccio, ah me lo faccio qualcosa. Tanto lunedì non so mai cosa cacchio fare, se vuoi andare a casa, mi intendi, prendi. Ehi, allora, adesso prova a chiamarlo, allora. Ma se ti danno ok, va bene, se poi ti dice di no, lo tiene così, non c'è problema, quindi era giusto per metterlo a posto e provare. Non ti preoccupare, non succede niente. Ehi, ya. Se non è che mi preoccupi quella vernice martellata, quella celeste martellata per il col Zodiac, il B5024, quello da base che c'ha quel colore lì, e poi non rifaglielo perché è buona, non c'ha grandi graffietti, però io non voglio fare più nuovo, più lucido, che è il colore del Tamer P2, te lo ricordi, l'hai visto quel celeste martellato lucido di quello da base che c'ho io, non l'hai visto? E quello c'è sopra sulla destra mi sembra. E io c'è un amplificatore nella vicino al computer, quello lì, poi sono tutti i baracchini, c'è un celeste metallizzato tipo il Tamer P2, tipo il Tamer P2 quel celeste lì, è una specie di celestino, è bellino anche quel celestino. Quello originale, quello non si cambia, se lo e se gli direi che sono originali me li prendono, se no niente. C'ho il manuale io, che lo devo leggere con la lente, con due paia di occhiali, perché di tanto è consumato dalla lettura, non si vede più. Aspetta, sto chiamando. E io? Ma sarà del telefono. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Ciao, vabbè. che sento proprio un attimino, stavate chiudendo, ho detto aspetta un attimino, se così due chiavi, no vabbè, ma sta chiudendo tu o sta chiudendo Benito, non ho capito. Benito glielo serve per farla, e se cancarendi. Io gli ho detto che sia pronto, cioè, quindi volevo chiudere preparato, ma 5 minuti ancora non c'è problema. Ho detto, vabbè, quella vernice grigia tu c'hai, tipo che così, grigio scuro. Ma grigio del coperchio stai parlando? E non per il coperchio, grazie a Dio, non ce n'è bisogno. No, no, volevo vedere il contrasto di un coperchio avanti, te lo faccio vedere prima di se è fattibile. Se non è fattibile, già lo porto giù in officina da lui. Te lo faccio. Non c'è problema. No, se ce l'avevi tu già pronta. Se no lo faccio fare. Devo avere il contrasto con di solito gli amplificatori, sono degli o neri o grigi. Questo è un celeste, è bruttissimo. Allora, discorso, ormai queste vernici, queste che si utilizzavano prima, queste le nitro per fare questi lavori che stai dicendo tu, sono, vabbè, la nitro già esiste ancora, però le altre acriche non ci sono più, ormai stiamo andando tutto con l'acqua, per cui non ho più niente, non possiamo tenere più niente di vernici al solvente, solo per l'uso specifico, diciamo, ne prendi, però molto limitato ne stiamo facendo, però a limite si può fare un po' di grigio, si cerca, si compone con le roppe, deve essere opaco quel colore, non è così? Un colore, no, ma ti voglio far vedere il contratto, se secondo te se va bene, no, non la vernice lo facciamo da giù, io solo vedere il contratto, se hai qualche grigio già pronto, vedere il contratto, no, se si può fare. Se farlo diverso. cliente quest'estate per verniciare un fornellino, proprio su bomboletta, infatti me l'aveva aperto, tieni l'altro, gli avevo verniciato un amico, là, tra l'altro uno di quei fornellini di barca, tipo quelli da campeggio, mi ha detto, non è che me la vernici tu che non ci sono buono, io ho detto, sei bravo Uso, perché la bomboletta non è come verniciare a pistola, però ti è uscito abbastanza bene, anzi meglio di quanto pensa, e termoresistente ce la dovrei avere, grigio o scura, mi sembra che sia la mia. Sì. Io vado tutto il forno. Il forno, sai, con quello di sopra, la grigliettina, e mia suocera non le metteva mai la protezione, quella in acciaio, e quindi aveva un po' sfumato. L'ho tolta, ho le viti, la sono messa fuori nel poggiolo, sono andato lì via Monte, l'ho la Gianni, ho preso la bomboletta dello stesso colore, alta temperatura, 600 gradi, figurati. È uscito nuovo, nuovo, nuovo. Oh, bella già. Non c'è problema, ve ne serve come volete già, sono bravo. Sì, mi piace già tutti per radio. Solo che una volta ne ho fatto una uno, e qua io ho trappiato, però non ci appoggiare niente sopra. Perché ci vuole almeno un giorno, due giorni per se farsi bene la vernice non farti segni. Come andrevi da casa sua, io trappoggio con una donna più sopra e gli ha fatto. I buchi dei pomelli, dei poggiapiedi, è toccato rifargliela tutta a casa. Vabbè, purtroppo. Vediamo oltre a Giuseppe se c'è qualcosa da un lato, se no riprendi tu. Attenzione, canale 10 che vuole entrare. Isma, avanti Giuseppe. Giuseppe, stavo aspettando la madre del figlio, quindi sicuramente arriva per sta parlando con lei. Come vuol dire la madre del figlio? Ah, un'amica. Non so, madre del figlio ha detto, io dico la madre del figlio, l'angelo. No, ma praticamente la madre del figlio è la moglie, se, secondo la logica. Vabbè, non può essere pure la moglie, l'angelo, ha detto così, ho ripetuto io. Vabbè, dai, non entriamo in merito, non sono cose che ci riguarda. Ok, vabbè, se mi è giocato a vedere qua. Sì, ah no, ho telefonato, vedi quanto abbiamo fatto. Non lo so. Sono andato io, vabbè, non sono un po' bravo, non ho voglia di stare lì al freddo, oggi non mi sono andato. Ho fatto chiamare, c'è il presidente, non c'è più, no, che vedi voi, vincete per me, fate di onore, ma io non ci vengo, no, l'altra volta mi sono venuto con un mal di collo, cazzo, c'è un freddo lì al campo di Mancali, che sta reagire, ragazzi. Ma non mi butti, io mi ero stato andato, vado, rivedi il cancaraggio, ho preso un freddo, cacchio già a piedi, no, a parte le mani, vabbè le mani già le muovevo, ma c'avevo i piedi per giliti, perché c'avevo le scarpe, forse erano un po' umide, le scarpe da tennis dall'altro giorno, le vacche un po' umide, cacchio, ma non c'avevo il dito del piede, quello grande è cancaraggio, infatti adesso appena sono arrivato ho cambiato le calze, me le ho messe a fianco del mossifone per farmele scaldare, ho preso un bel di freddo, poi mi ho comprato da i senegalesi, quelle cose che si mettono al collo, come si chiamano, scaldacollo, comunque già non tenendo di freddo. Noi abbiamo fatto speso 2700 euro la sportissima. Ci abbiamo i giubbotti, i piumoni grossi, ma arrivano sino proprio, mi tappano tutta la bocca, capito? Guarda, c'hai una sciarpetta sotto, col cappuccio. No, sabato scorso sono stato bene, nonostante c'era freddo, ma non come oggi. Qui c'è tramontana, è pungente, ti ripeto, lì a Mancari c'è un freddo allucinante. E quindi ho preferito non andarci. Dopo lunedì sono a pezzi, lo so, a me mi prende subito, infatti sono già un po' rauco, sono uscito stamattina e sono un po' rauco. Perciò adesso tra l'altro stasera abbiamo di uscire, ci hanno invitato a cena con lo Torres, per questi amici, e perciò devo andare, ma sono ancora in pigiama e sono l'ultima con guai. Vabbè. Si sta di un bene a casa allucinante, però anche queste sono cose da fare. No, mi guarda, io meno male ha telefonato mia moglie, la cognata, la sorella, ha detto io andiamo a mangiarci la pizza, ha detto speriamo che di chiare di nuovo, ha detto io a casa, dai, te la mangiamo a casa, telefonata adesso ce la portano qua, non è mio Puglia, vai troppo muretto. Signori, buonasera. Buonasera. Rientrati. poi sì. No, vabbè, non è una questione di pizza, quindi siamo a casa lì a Poltrose di amici miei, di mio fratello. Tra l'altro un collega di lavoro di mio fratello, perciò siamo lì alle Lioni, cioè alle Lioni a, come si dice, lì a Serralicuzzi. Quindi siamo vicino a te, Sandro. Quasi quasi le foto portate, le dichiamo, poi ne va a ehi, fai così, però non puoi arrivare alla testa fuori perché sennò no, ti congeli tu o il portatile. Minchia, sono sceso in macchina. Sono sceso in macchina un attimino, 5 gradi, 5 gradi. Ma poi da te, lo sci a pura fa bisogno, eh? Sono una lana di gombo, Luigi. Beh, insomma, al giorno d'oggi, insomma, chi è che non ce l'ha? Chi è che non ce l'ha? Se non sbaglio ce l'ha Roberto. Ciao Roberto. Sì, ciao Sandro, probabilmente quando ti ho salutato stava parlando Claudio perché non me ne sono accorto, ci siamo sovramodulati almeno un pezzettino della conversazione, comunque ben sentito. Ciao Sandro, e di nuovo qua, ripeti. Ehi, amica, sono entrato Sandro, io tanto mi presto, però vi ascolto là. Se chiamato intervengo, se no fatemi vestire, se no me lo devo mettere alle 8:30, cioè sono già le 8:10, mi prendete voi 2 minuti, io già sono qua. Avanti Sandrino. Mi raccomando, se c'hai i mutandoni del nonno, mettili, che sarà meglio. Dai, vabbè, dai, noi ce la mettiamo, ma poi è il suo tempo, tutto lì. A noi 5 gradi non è nulla, chi ci sta in Sibiglia, quello devi dire, o qualche zona roccia dell'Alta Italia che arriva a meno 10, 15. Sì, lo sai cos'è Roberto, è che logicamente noi non siamo abituati, già come la temperatura scende sotto i 10 gradi, già noi siamo, ce ne accorgiamo, è sofferente. L'altro giorno mi ha chiamato mio cognato dalla Germania, lì ad Amburgo, e settimana scorsa, ma ricordo se mercoledì o giovedì, figurati, erano meno 12 gradi, quindi vabbè da te. Già lo so, però c'è da dire che loro, il freddo loro è diverso dal nostro, perché noi qua abbiamo il vento, lo amplifica, lo senti, lo percepisci molto di più. Io mi ricordo tanti anni fa sono andato in alta montagna e in giubbotto, c'erano meno 13 gradi, c'era una giornata di sole bellissima, era meno 13 gradi, però freddo non ne avevo. I roghi vengono meno 13 gradi, i muri ti trovano congelato, qua già intorno ai 6-7 gradi stai iniziando già a soffrire il freddo, quando arriva la temperatura a 3 gradi finita da muri, se c'è appena le maestrale, ti cancareggia. Esatto, sì, perché non siamo abituati logicamente a queste temperature, è come che se noi dovessimo andare in Siberia, guai. Ma io mi ricordo, saranno 7-8 anni forse, sono 10, sono stato lì per questione di lavoro, sono stato lì ad Aosta, a Kumayer, per esattezza, a Kumayer proprio sotto l'imbocco, e ti posso dire che eppure c'erano temperature da far paura, però non era tutto questo gran freddo, era un freddo secco, sopportabile e così via. Da noi diciamo freddo umido logicamente dove ti penetra nelle ossa, quindi è tutto un altro freddo, tutto lì. Sì, è normale, lo so. Purtroppo è così, noi siamo fatti così, ci abbiamo il vento, magari può essere piacevole l'estate perché certe altre zone, Milano, queste così, non la prima palla che sono chiuse dalle montagne, di lì quando ci sono per dire 30 gradi è come dire se ne siano 40 da noi perché non c'è vento, si fa male la cappa sopra, non c'è ventilazione, poi magari 38 gradi qua lo sopporti meglio perché magari c'è una leggera brezzolina e ti attiva un pochettino, il tasso di umidità magari è diverso da quello che possono avere loro, viceversa d'inverno ci prendiamo un pochettino più, lo sentiamo di più, io me la accorgo dalle mani, quando sento già le mani che iniziano già al farmi male dico la temperatura è bassa, è quello lì, perché poi basta c'è appena appena umida e guai, come oggi c'avevo i piedi umidi e verrà giù cancarati, proprio il sinistro non me lo sentivo più. Sì, d'altronde è così, capito, non siamo abituati, ma a noi ci penalizza quando nella Corsica, adesso non mi ricordo come si chiama quel monte Calvi, se non sbaglio mi chiama Calvi, quel monte più alto che c'è, quando è bianco, a noi tira un po' di scirocco, tira un po' di vento, a noi ci fa beffa. E vabbè, però c'è da dire anche questo, che le basse temperature fanno bene, faranno male a noi, però fa bene, diciamo, all'ambiente, fa bene alla terra, fa bene, diciamo, agli alberi, perché purifica e elimina un po' di tutto, quindi male per dire per noi, però per noi ci copriamo, ce ne siamo dentro casa al caldo e quindi diciamo già fa bene. Ammazza un po' di animali, comunque è Monte Cinto, se ti interessa ricordare. Come? La montagna più alta della Corsica, 2700 e passa metri, è Monte Cinto si chiama. Esatto, adesso non me lo ricordo, no, perché sono stato lì in Corsica, sono stato lì a Calvi, però non d'inverno, precisiamo, sono stato d'estate, un bellissimo posto, guarda, quella, la Corsica è un qualcosa di straordinario, tanta di quella vegetazione, acqua che discende da tutte le parti, dalle montagne, addirittura io avevo fatto lì da Bonifacio, Propiano, poi sono salito, cosa ho fatto? Ho fatto, mi sembra, Porto, che è una zona dentro un canalone, guarda, è stupendo, è qualcosa di micidiale. Dalla montagna scende giù, che poi da lì si sale a Calvi, ci sono strade piccolissime, strette, guarda, è un qualcosa, per chi non ci è andato, diciamo, è qualcosa da vedere. Prima di arrivare a Porto ci sono le calanche, le chiamano le calanche, non so se ti è mai capitato di vedere qui tipo quei film western dove c'è la montagna e tu ci passi sotto, ci sono queste scarpate allucinanti, guarda, io almeno da parte mia mi ha colpito, veramente bello. Sì, no, anche io sono abbastanza appassionato a Corsica, a parte quest'anno che non sono andato tutti gli anni, dall'89 vado tutti gli anni, ho saltato un paio di anni, non c'è una bambina piccola, e Calancio già le conosco bene, bellissimo posto, il posto Porto si chiama, quello che stai dicendo tu, probabilmente sei passata anche ad Aiaccio, per andare a Corte devi passare anche ad Aiaccio, fai Propriano, Aiaccio e Corte devi passarci, però che non l'hai evitato, no, conosco benissimo, almeno il versante ovest della Corsica. Diciamo, perché ci vado da tanti anni, ci sto una settimana di media, ci stavo tutti gli anni, a parte quest'anno che non sono andato, ho preferito rimanermene qua in zona, però la Corsica è eccezionale, come hai detto tu, per l'acqua, prima di tutto per il paesaggio, per le montagne spettacolari e per il contrasto tra mare e montagna. Anche se c'è da dire una cosa, che il mare nostro, secondo me, è superiore, a parte qualche pezzettino di spiaggetta, cose contaminate, però il colore del mare nostro è insuperabile, secondo me. Però la Corsica, tanto di cappello, io ci vado, ho detto, mi piace tantissimo, sono appassionato, ci vado ben volentieri, vado sempre di lì, allo stesso posto e non sbaglio, vado da Iace e poi mi sposto da tutte le parti, non parto più da Bonifacio perché è una sfacchinata allucinante, faccio direttamente Porto Torres o Propriano o Porto Torres a Iace e poi da lì mi muovo. Sì, esatto, a Iace. No, guarda, mi è rimasta impressa, io sono rimasto una settimana per questione di lavoro, Ti posso dire, guarda, un qualcosa di spettacolare, guarda, mi è rimasta talmente impressa. Se mi capita l'opportunità ci ritorno, perché guarda, mi è rimasta veramente impressa. C'è una vegetazione allucinante, guarda, è un cuore della natura quello lì, guarda, sembra miracolato. No. Sì. Porto addirittura, se ci sei, lo conosci già, con le stradine strette e piccoline che in effetti dalla montagna sali, poi scendi, tornanti e tornantini. Un'altra cosa che mi ha molto colpito, diciamo, e così via, che tutti gli animali sono, si può dire, allo stato brado. Lì non hanno bisogno diciamo, di essere recintati o così via. Addirittura siamo rientrati di notte, perché poi ci siamo fermati via Propiano, cinghiali che si attraversavano la strada così indifferentemente, diciamo, guarda, è un qualcosa. Poi diciamo la gente che ci abita, vabbè, all'inizio diciamo è un po', se non si conosce, se non si è accompagnato da qualcuno, tutto quanto è un po' restia, magari il modo di vivere loro, le loro abitudini, le loro tradizioni e così via. Poi un altro particolare molto importante che ho notato, infatti a prima parte ho detto, ma cioè la legna fuori di casa che non ne manca, poi le chiavi sulla serratura esterna dell'abitazione, ho detto ma strano, ma così via. Infatti ho chiesto a una persona che era del posto e mi dice no, dice noi, dice, per noi è un'abitudine, non ci preoccupiamo. Sì, ricordano infatti quei paesotti del nuorese, piccoli paesini, piccoli, con pochi abitanti, che c'è massima fiducia, eccetera, eccetera. Probabilmente i cinghiali li hai visti anche a Navacotta, di lì vicino alla Rezzonica, non so se ci sei andato, dove ci sono le cascate, bellissimo posto, allucinante, che ci sono le piscine, non so se sei andato, le piscine di acqua, parte da 2000 metri la montagna, poi scende ogni, per dire, ogni cosa, c'è tutto il percorso, nella boscaglia, e sale, è una cosa spettacolare. Non ricordo questo particolare, però comunque siamo arrivati fino lì a Calvi. No, guarda, è una terra meravigliosa, pensare che la Sardegna, diciamo, era tale quale, diciamo, la Corsica, solo che poi la Sardegna magari ha diverse abitudini, ha diverse, la gente magari un po' diversa, invece lì no. Lì sono cordiali, ti offrono, diciamo, addirittura ti offrono il cuore, sei ospitale, insomma, se ti vuoi far voler bene lì, guarda, ti accolgono a cuore aperto. Loro, diciamo, non ammettono l'arroganza, non ammettono qualcuno per dire che ne approfitta, perché anche è giusto, perché logicamente sei in casa loro e quindi ti devi comportare, diciamo, come da ospite, oppure diciamo così via. No, guarda, veramente eccezionale, un qualcosa di particolare. Poi sul mare lo stesso, non è come qua, perché ci sono, non so se lo sai, ma se stato lo saprai, ci sono le zone interdette dove non è che puoi andare come vuoi. Se c'è il palco già lo so, non c'è problema. No, è bella, niente da dire, perché è bello, sono molto caratteristici i paesi, carini, piccolini sulla strada, di per dire 20 case, quello è un paesino proprio sulla precipizio della montagna. Quello è Calascio, quello che mi stai dicendo tu, è micidiale il contratto, perché ci sono dei burroni, dei strapiombi di 5-620, se ci cadi giù le strade strette. Poi di lì c'è il pezzettino delle ombre, non so se te lo ricordi, se l'hai visto, dove a una certa ora appare questa Calascio, ti fanno vedere un'ombra di una figura, c'è il monaco, un'altra cosa, due o tre figure escono, non so se l'hai visto. No, questi particolari no, però guarda, mi ha colpito un casino, guarda, lì ci sono delle scarpate allucinanti che vanno proprio sul mare, infatti lì devi andare a passo d'uomo, perché in effetti diciamo che sono tipo stradette piccole, due macchine ci passano giuste, lì quando capita un fulmine alla macchina ti devi fermare e così via, quindi sono delle, sono tipo mulattiere, diciamo, ancora allo stato naturale, capito? Tutto lì. No, no, guarda, è veramente eccezionale, eccezionale il posto, l'ambiente, la gente, perché io veramente mi sono trovato troppo bene. E infatti ogni tanto c'è un amico, diciamo, carissimo, che ogni tanto mi dice guarda che è, ci vieni, questo e quest'altro. Però logicamente per questo è il lavoro, questo è il tempo, non me lo permette. Però se ci vorrei di nuovo andare, tutto lì. Sì, no, non è consigliabile, perché un sacco di gente è convinto ad andare, perché molti ne sentono parlare, ho detto andateci, perché a vederla è diversa da quello che si può raccontare, molto molto interessante. Sono molto, c'è da dire, sono molto gelosi della propria terra, i corsicani. Purtroppo si sta sporcando perché stanno venendo turisti, c'è queste agenzie che fanno queste cose qua a sporcare, a costruire residence e cose del genere, un po' si è sporcata. Negli ultimi, io parlo dall'89 quando sono andato la prima volta, rispetto all'ultimo anno, l'anno scorso che sono andato è cambiato tantissimo. Ogni tanto ne fanno saltare qualche residente, qualche supermercato, qualcosa del genere, perché sono molto gelosi delle proprie cose, hanno questa, come si chiama, senso di molto di più rispetto al nostro. Noi abbiamo questo partito sardista, cosa del genere, però arriviamo a mettere le bombe, a far saltare, quelli invece non ne frega niente, sono proprio gelosissimi dalle proprie cose, delle, cioè, se arriva un corsicano e si piazza un supermercato non succede niente, se viene uno, loro li chiamano i francesi, perché non si considerano francesi, ho degli amici in Corsica, per quello te lo dico, sono molto, come si chiama, verso i cosiddetti francesi, loro è peggio che mai, magari noi i continentali li chiamiamo ma non ci frega più di niente, però loro proprio sono gelosissimi, se dovesse piazzare qualcuno per dire che viene da Marsiglia, da Parigi, qualunque cosa, loro li mettono in bastone sulle, tra le ruote. Sì, esatto, esatto, sì sì, questo ce l'hanno. Ce l'hanno perché sono molto molto gelosi, diciamo, della loro, chiamiamo loro terra, del loro luogo di nascita, e quindi ci tengono moltissimo. Ecco perché ti ho detto che loro ti accolgono, in effetti come, diciamo, che ti danno carta bianca, sono molto diffidenti inizialmente, però diciamo sono abbastanza accoglienti. Io mi ricordo una famosa particolare, una sera stavamo uscendo, diciamo così, a fare un giretto, tutto quanto, ho visto uno fuori strada lì, se non sbaglio era della Mitsubishi, nuovo di pacca, avrà avuto qualche mese di vita questo, ma era tutto crivellato di pallottole. Il buco più piccolo che c'aveva sarà stato di circa, come posso dire, un diametro di 3 cm per 3 cm. Guarda, sono rimasto così alla becca. Un'altra cosa che ho notato lì, diciamo, il fucile è sempre in macchina, portata di mano, ma non per cattiveria o per che cosa, perché non è la loro abitudine. Perché lì ci sono altre leggi sulla caccia, diciamo, nel bar stesso ci sono particoli, diciamo, tipo circoli e così via, però per esempio il fucile è appoggiato lì al balcone, cioè per loro è una cosa normalissima, diciamo, un'abitudine loro, per chi non c'è mai andato a vedere queste cose magari rimane su chi va là, si impressiona un attimino. Sì, lo so, io a me mi ha colpito invece una situazione, per dire, all'andata ho fatto la strada in questo posto e c'era, che l'anno prima non c'era uno di quei supermercati tipo Lidl, cose così, tipo Eurospin, cose del genere, appena messo un po'. Sono passato al ritorno dopo una settimana, non esisteva, l'hanno fatto saltare per aria, completamente disintegrato. E vicino, tieni presente, c'era un distributore di carburante, perché loro mettono le bombole fuori, non so se hai visto le bombole del gas. Io non so come ha fatto a non esplodere queste bombole di gas dalla deflagrazione, perché il coso era completamente disintegrato. E di lì vicino c'era questo coso, distributore. C'era bruciato vicino al distributore, però non ha, fortuna ha voluto, non ha scoppiato le bombole di gas, c'erano centinaia di bombole di gas, loro le viste, le mettono di lì, e il distributore vai che l'ha presa. Sì. Lo so, diciamo che loro sono molto gelosi, sono molto gelosi. Lì lo stesso mi ricordo sulla strada da Bonifacio, dopo Bonifacio c'è, che adesso non mi ricordo, che bisogna fare tutta quella strada lì, salitori, strettoia, guarda, è allucinante, non mi ricordo se è Propiano, no, forse non è Propiano, che rimane proprio sul porticciolo. Perché c'ho la posteggi, esci, ci sono tutti i vari supermercati sulla destra, che c'è, mi sembra, una rotatoria. Comunque ci siamo fermati lì a berci qualcosa e siamo entrati in questo bar. Infatti questo mio amico mi ha detto, dice, leggi quella insegna. Allora, un'insegna grande all'esterno, scritto, bello grande, vietato l'ingresso agli extracomunitari. Addirittura. Allora il paese può essere, dopo Bonifacio c'è Sartene, dopo Sartene c'è Propriano, però dalla descrizione è più Propriano, se mi sta dicendo che c'è il porticciolo con i supermercati vicino può essere Propriano. Il primo paese di una certa importanza prima di arrivare ad Aiancio, cioè sono circa 60 km, mentre partendo da Bonifacio il primo che trovo di una certa importanza è Sartene. Esatto, Sartene. Che Sartene noi lo troviamo, diciamo, sulla strada da Bonifacio, troviamo Sartene e poi Propriano, sì, esatto, tutto lì. Infatti sono rimasto così guarda, allucinante, questo divieto di, infatti in Corsica extracomunitari, diciamo, ce ne sono molti, molti pochi, quei pochi che ci sono, almeno sono lì per lavoro, non è che siano lì sbandati, buttati o senza far niente, sono lì che lavorano, si sono ambientati lì e diciamo e conducono una vita normalissima. Ecco. Sì, ciao qua, cosa? Ok, dai, io vi saluto, vi sto uscendo. Andiamo nella zona di casa e questa sera è andata così, la prossima volta prima avrei due predicine del tempo e poi mi muovo, dai. Signori, fatevela buona, buon proseguo di serata, buon fine. Sandro, noi ci vediamo domani mattina, dovrebbe salire anche Benito, che deve portarmi una cosa anche lui, che dobbiamo controllare. Va bene. Prossimine, buon fine serata a tutti, anche a quelli che sono ascolto. A te Sandro. Ok, ciao Claudio. Buona, buon continuo di serata, dai. Salutoni al Torea e buon tutto. Ci sentiamo ok per domani mattina, dai. D'accordo, ok. Ciao Roberto, dipendi. Va bene, molto tutto un po' di verde, sì, sarà bravo, non bere troppo a chi vede l'auto vera su quello del chilometro, ho chiesto, scherzando naturalmente. Domani sera magari, ti do, secondo com'è, naturalmente se sei disponibile, ti do uno squillo e mi fai vedere la famosa novità che hai fatto in trazione, se ti va bene, se no alla prossima. Beh, non ci bisogna neanche che me lo chiedi, infatti io sono a casa, io domenica non esco mai, va. La domenica mattina mi posso allontanare un paio d'ore, ma mi tolgo la mezza piedi perché qua fanno pulizia, aprono tutto, aspirapolvere, ballerare, quindi mi tolgo la mezza piedi. Ma la domenica sera io sono a casa, non c'è bisogno di dirmi, non devi prendere il pullman, sei a 100 metri da me, vieni volentieri, ti aspetto. Ciao, a domani. Ciao, ciao, buon divertimento, ciao, ciao, avanti, sa. Sì, ciao Fla, buon tutto, alla prossima. Va bene, dai, anche io ne approfitto un attimino, dai, mi dedico un attimino a altre cosette. Ok, vabbè, dai, ti saluto, ce la sentiamo tutte le prossime, buon continuo di giornata, alle prossime, ciao Rudy. Di cambiare anche a te al 100%, sto facendo ora, sto aspettando le piste, mi hanno detto per le 8, sono già in ritardo, dai. Ok, buon tutto anche a te, buona giornata per domani, rimango un po' in ascolto qua, se c'è qualcuno sono pazienza. Dimmi ancora, sento sotto di te comunque una ventolina, cos'è, l'apparecchio o qualcosa che c'è vicino, Sandro? No, diciamo che la ventola dell'alimentatore, non so se la conosci, è quell'alimentatore della Proflare. quello... Sì, dovresti conoscere. Allora, questa ventola, e siccome adesso mi devo organizzare un attimino se metterlo da qualche altra parte, perché ce l'ho, diciamo, a quasi a 40-50 centimetri dall'apparato, diciamo, e quindi, e poi c'è da dire che questo microfono, diciamo, assorbe un casino. Sì, no, tieni presente, queste qua sono osservazioni, non sono critiche, cioè perché molte volte qualcuno dice non mi ha detto niente, sentivi il difetto, io molte volte, perché qualcuno se l'ha presa anche a male per le osservazioni, io le faccio a livello di osservazione, tieni presente, non so se ci, cioè non ci conosciamo da molto, però chi mi conosce, non lo dico col discorso critico, non sono il classico pignolo, ma quello lì sta uscendo male, io preferisco dirtelo che magari tu sei convinto che sia tutto a posto e magari c'è qualcosa che non va, mi stai confermando che è un problema dovuto alla vicinanza, per cui non c'è da preoccuparsi. Perché magari qualcuno non se ne accorge dell'osservazione, magari c'ha altri problemi e dice come non mi avete detto niente, e magari si rovina l'apparato, ok, come hanno detto il discorso. Ok, ok, no, figurati potermela prendere, anzi bene accetto, perché sai, come giusto come hai detto tu, delle volte magari ci sono delle anomalie in trasmissione, non ce ne accorgiamo, e quindi è giusto per dire, come hai fatto tu in questo caso, che lo fa presente. No, più che bene, logicamente c'è chi dice ma si può fare i fatti suoi, cosa vi interessa, questo e quest'altro, però da parte mia non ci sono problemi. Ok, va bene, allora ti saluto di nuovo, alle prossime, ciao ciao.